fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo con le prime ragazze del nostro sabato sera in compagnia della sposa che si chiama? Ilenia. Ilenia, da dove vieni? Da Monno. Da Monno? Oh, da Monno, dov'è Monno? Vicino a Ponte di Legno. Vicino a Ponte di Legno, che viaggione avete fatto, fantastico. Mortirolo. Ah, sei passo? Bravissimo. Che storia, bravissimo, ma che bello. In avete bici, eh? In bici, certo. È appena passato il Giro d'Italia. Adesso l'abbiamo perso, ce lo siamo persi, anche sì. Siamo la in diretta. Rosa. C'è un ragazzo con la maglia rosa stasera? L'avete visto? No, chi è? No. Non l'avete visto? Lo sposo. Hai ragione. Non si ricorda neanche più dello sposo, non te lo ricordi? No. Ah, perfetto. Quello vero te lo ricordi come si chiama? Alberto. Non è vero, Paolo. Questo qui è Giacomino. Fa sempre così? È il secondo nome. Ok, ma lei fa sempre così quando sì. Sempre? Sempre. Ogni tanto mi presenti le amiche anche? Tania, ma dimmi, aspetta, siccome alla radio non ci vedono, devi presentarla anche con un suo particolare, che così si capisce che è Tania. Mia nipote. Allora tutti capiscono che è Tania, ecco, perfetto. Esatto, quindi Tania detta? Tania, va bene, perfetto. Poi cosa abbiamo? Viene dalla montagna, Tania. Giusto? Sì. Fatto la battuta, contentissima. Poi cosa abbiamo? Vanessa? Anna? No, aspetta, Vanessa non c'ha soprannome, non c'ha una. No, neanche lei. Neanche legame di parentela, niente. No, lei è mia cugina. Ah, ecco, vedi che c'è tutta la dinastia qua. Esatto. Poi? Altra cugina, Anna. Chi è? Ah, fai ciao, saluta. Ciao a tutti. Ciao a tutti, tra l'altro. Saluto tutti, indistintamente. Quindi soprannome di Anna? Pat. Che? Il cognome. Ah, la Pat. Abbiamo la. Vedi, la Pat, se qualcuno del Mortirolo ci sente, dice: ah, la Pat. Esatto. Vedi, è per quello. Valtellina. Ah, tu sei della Valtellina? Dillo al microfono che se. No, Io sono della Valtellina. Come fanno quelli della Valtellina? Presaola. No. Cioè, come fanno Presaula? Cioè, è così, non so, un saluto, qualcosa, un verso. Fanno. Delle amiche strane, cioè cos'è che fa? Questa viene in bicicletta, l'altra fa e fa la Bresaola. Sei sicuri che è tutto a posto? L'aria di montagna che fa bene, si vede che mi fa bene. Mi raccomando, venite a trovarci il gatto nero Monno, è la nostra sposa. È il bar della sposa. Ah no, esatto, no, perché non si capisce, è il gatto nero, la sposa. Ok, quindi tutti al gatto nero a Monno. E che sposa, che è vestita da sposa, tra l'altro, no, tutti no, i giorni, no? No, no, che fa. Cos'è che fa, il caffè? No? Sì, barista. Ah, è la barista? È la barista ufficiale di Monno. Lì, dillo lì. Sì, sì, è la barista. Ah, ecco, ecco, brava, ricorda. Guarda che quella che ha riso prima. Che fai? Attenzione, ci abbiamo un esemplare. Ecco, ricordiamo agli amici a casa che non vedono che ogni tanto si affaccia qualche esemplare strano. Ecco, ci sono questi a Monno? No, tutta gente per bene. Sei? 5-1. 1, 2, 3. Dice egoista. Ecco, io sono qui con 5 gnocche e lui è fuori da solo. Ci sarà un perché, tra l'altro, fuori da solo. Ecco, va bene, ma. Dimmi qualcosa di Monno, qualcosa. Perché uno deve venire a Monno? Aria fine. Aria fine? E per la tanto patata. Alcol. Aspetta, che abbiamo trovato una motivazione. Tanto alcol già è una motivazione, ma la ragazza ci ha centrato proprio giusto. Ripetilo proprio al microfono. Per la patata. Ah, la famosissima patata di Monno. Bravissimo. Ecco. È una specialità, eh? Certo. Avete portato qualcosa voi da casa? Niente? Ma come c'è? Ma sta disponibilissima questa. Quella che è la nipote, hai detto? No, cugina. Questa che è la vicina di casa? Cugina. Ah, la cugina. Anche vicina di casa. Oh, attenzione, si stanno. Opportunando. Ecco, dopo che hanno sentito della patata di Monno, c'è stato un entusiasmo. Tra l'altro, lo lucidano il vetro. Eh sì, è fantastico. Quindi, c'è la famosissima patata di Monno. Cos'ha questa patata di Monno che gli altri non hanno? È senza pelo. Colpo di scena, siamo circondati. bellissimo, bellissimo, fantastico, mi piace. Secondo me a Monno quest'estate ci sarà un tutto esaurito. No, la sagra è il primo sabato di ottobre. Allora, ricordiamo, primo sabato di ottobre, la sagra della patata di Monno senza pelo. Perfetto. Perfetto, ci saranno pullman, turisti. Avete, giustamente il bar poi farà un record di incassi, perché ricordiamo che si deve sposare, quindi bisogna contribuire. Ecco, ecco, tu mi piace questa cosa, sono rimasto, non me l'aspettavo. Ecco, quindi tua motivazione è inutile che la chiedo alle altre, perché c'hai qualcosa, niente? Niente, è rimasta senza parole. Anna perde, che la... basta, questa è in bicicletta, venite in bicicletta come volete, l'importante è che venite a Monno. Vuoi fare lo slogan? Tutti a Monno alla sagra della patata! Olè! E non solo! C'è ancora? Di tutto e di più! Di tutto e di più! Fantastico! Tomorrowland della Val Camonica! Ah, Tomorrowland della Val Camonica! Ecco, diamo voce anche alla nipote che fa, cosa fai? Ah, c'è le catene che ti stanno... Pensando. Tanto, ma è l'unica sposa sadomaso con una borsa... Tra l'altro... non sembra di essere in un acquario qua dentro? Cioè, manca l'aria. Ti manca l'aria, non dici cavoli, ma. Oppure un film dell'orrore, tipo. Anche loro cercano un patate. Anche questi, i marinari. No, hanno sentito della sagra, hanno detto. Non è che si può fare una degustazione qua, chiedevano i ragazzi, no. Ok. Allora, il nostro tempo sta per scadere. Ecco, tra poco vi aspettare YouTube per cantare. Ecco. Sì, esatto. Noi abbiamo fatto 5 minuti per raccontare e raccontarsi. È stato bellissimo. Abbiamo scoperto della sagra della patata di Monno. Bellissimo. Okay. Quindi vi fate un saluto ai vostri amici a casa? No. Non so cosa vuole. No, saluto le mie amiche per la grandissima festa che abbiamo fatto stasera. Visto di tenera? Brava, brava. Poi? Basta. E noi auguriamo alla Ile una vita felice. No, mi piace proprio la... matrimonio. Mi piace con, la... con Alberto e Paolo. Con Alberto. Con Alberto. Alberto. Non sbagliarti, non sbagliamoci. Ecco. E poi aspettiamo tutti gli ascoltatori al bar. Gatto Nero. Il Gatto Nero a Monno. Sì, esatto. Aperto tutto l'anno? Sì. Tutti i giorni. No, non fa mai pausa. 7 giorni su 7. Che staccano vista, bravissima. Con l'altra sposa, ricordiamo il nome? Ilenia. Ciao ragazze. Grazie. Ciao.